Letture di Radio 24. Nel 1981 Ellen Langer, una giovane docente di psicologia, aveva dato vita ad un esperimento anti-orario. 8 uomini, tutti attorno ai 70 anni, erano stati invitati a trascorrere 5 giorni all'interno di un edificio dove tutto sembrava arrivare direttamente dal 1959, dagli arredi alla musica alle riviste sparse qua e là. Lo scopo era vedere se il modello biomedico dominante all'epoca, che vedeva corpo e mente correre su binari separati, potesse essere messo in discussione. Dato che si pensava che l'unico modo per ammalarsi fosse quello di introdurre un agente patogeno e l'unico modo per guarire fosse quello di liberarsene, la soluzione poteva essere quella di fare in modo che gli anziani che si erano prestati all'esperimento si convincessero di essere quelli che erano nel 59, ovvero più giovani di 22 anni. Ed effettivamente, sottoposti ad esami medici al termine del soggiorno, gli anziani presentarono dei valori decisamente migliorati, avevano una maggiore destrezza manuale e il loro corpo risultava più flessibile. Nonostante il successo, l'esperimento non ebbe però un seguito, ma nel corso degli anni la Langer ha continuato ad indagare sugli aspetti meno razionali della psiche e oggi si appresta a lanciare un nuovo esperimento, con una posta in gioco più alta. Curare attraverso la torsione del tempo il tumore al seno metastatico al 4° stadio, per il quale oggi la medicina tradizionale offre poche possibilità di cura. Lo studio includerà 3 gruppi di 24 donne a quello stadio della malattia, ma in condizioni stabili. Prima di cominciare e poi al termine dell'esperimento, tutte le partecipanti verranno sottoposte a esami clinici di ogni genere. Poi 2 gruppi saranno trasferiti a San Miguel de Allende, in Messico. Il terzo resterà a casa propria e non sperimenterà alcun tipo di intervento. Il primo gruppo di San Miguel avrà il sostegno di amici che hanno vissuto l'esperienza del tumore, ma non sarà riportato nel passato. Il secondo gruppo, quello sperimentale, passerà invece una settimana in un ambiente che evocherà in ogni particolare il 2003, anno in cui tutte le pazienti erano sane e fiduciose del futuro. Verrà loro chiesto di cercare di abitare le persone che erano a quell'epoca. Negli ambienti dove vivranno ci saranno pochissime testimonianze del presente. Le riviste disponibili saranno tutte targate 2003, come i film che potranno vedere. Le donne del gruppo sperimentale potranno portare con sé solo oggetti del passato, come fotografie di quando erano più giovani. Le spingeremo a fare tutto quello che possono per se stesse, da sole. I ricercatori le incoraggeranno a ripensare la loro condizione tentando di ripulirla dai messaggi negativi che hanno assorbito nel corso della loro malattia. Un passaggio fondamentale, perché così come la mente può migliorare le cose, allo stesso modo può peggiorarle. È l'effetto nocebo, uguale e contrario negli effetti a quello placebo. La diagnosi stessa della malattia può innescare nel paziente i sintomi che si aspetta di dover manifestare. Come esempio, la Langer cita una sua ricerca del 2010, dove si prendeva in esame un gruppo di donne guarite dal tumore al seno. Chi definiva la propria condizione come in remissione aveva indicatori di salute peggiori rispetto a chi si considerava curata. Così, a San Miguel non si parlerà di vittime del cancro. Nessuno dovrà combattere una malattia cronica. Quando si dice combattimento, si dà già per scontato che l'avversario sia molto forte, mentre cronico viene inteso come incontrollabile. Non si tratta di concetti che tutti sono capaci di accettare. Come gli uomini del New Hampshire, le donne del nuovo esperimento passeranno una settimana ricca di stimoli. Lezioni di arte, di cucina e di scrittura li aiuteranno a distrarsi e a ritrovare il piacere di stare con se stesse. I dubbi etici riguardo allo studio, però, sono molti. E se le pazienti, anziché migliorare, peggiorassero, si potrebbero sentire in colpa per non essere riuscite a controllare la malattia? La risposta l'avremo nei prossimi mesi. Io mi auguro tuttavia che arrivi il giorno in cui di chi è la colpa non sarà la prima risposta che cercheremo se le cose vanno male, e invece ci impegneremo per far fruttare il potere della nostra mente, che per la Langer è molto più grande di quanto possiamo immaginare. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Bruce Grierson e se l'età fosse solo uno stato mentale? Dal numero di marzo della rivista Focus. Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi a Trieste si è aperto un dibattito tra genitori e istituzioni per l'introduzione negli asili del gioco del rispetto, un laboratorio didattico volto a superare gli stereotipi di genere che sono alla base di molte discriminazioni. Ma c'è davvero bisogno? Si chiede la scrittrice Susanna Tamaro in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di definire, fin dalla più tenera età, quella che sarà la nostra identità sessuale adulta. Il tutto in nome di un politicamente corretto portato all'estremo, che rischia però di confondere le idee ai bambini, rendendoli ancora più fragili. Abbiamo davvero bisogno, mi chiedo, di un programma che insegni ai bambini le gioie del travestimento e alle bambine che possano aspirare a fare mestieri da uomini, in tempi in cui Samantha Cristoforetti ci parla dallo spazio? Il tabù delle professioni solo maschili è caduto ormai da tempo nella nostra società. Ci sono donne nei pompieri, nelle forze dell'ordine, donne che guidano navi da guerra e che pilotano caccia. Il facciamo finta che, mi sono chiesta, non appartiene da che mondo è mondo alle modalità di gioco dei bambini? Io, ad esempio, ho sempre provato un vero orrore per i costumi femminili. Detestavo le principesse, i pizzi, il colore rosa. Se c'era un ruolo che rivendicavo per me, era quello del comandante di Fort Alamo o di un capo indiano, e in queste attribuzioni che avvenivano 50 anni fa nessuno mi ha mai preso in giro né represso in modo tale che io me ne ricordi come di una ferita. Non solo, ma giocando mi facevo sempre chiamare con un nome maschile, perché quella era l'energia che sentivo di avere addosso e tutti intorno a me stavano al gioco. L'idea che i bambini abbiano bisogno di essere edotti in queste manifestazioni spontanee dell'età ha per me qualcosa di deprimente, perché sottovaluta la libertà e la creatività che c'è in ogni essere umano, specie se è piccolo. Da sempre i bambini sperimentano tra di loro quelle che saranno le potenzialità dei loro corpi, lontano dagli sguardi indiscreti degli adulti. È un tempo di scoperta che esige la separazione dal mondo adulto. Viene il sospetto che tutto questo febbrile desiderio di spingere i nostri ragazzi a conoscere la nomenclatura delle parti intime, il loro uso, declinato in infinite e variegate possibilità, sia in realtà collegato all'inarrestabile declino di quella che una volta veniva chiamata educazione. Non essendoci più l'educazione, non ci rimane che quella sessuale. Ma in che cosa consiste l'educazione sessuale e soprattutto che cos'ha davvero prodotto in tutti questi anni di diffusione scolastica? Se ci guardiamo intorno, non possiamo non notare che il degrado relazionale è purtroppo molto diffuso tra gli adolescenti. Esperienze come quelle di Trieste nascono per tentare di arginare questo fenomeno. Serviranno, mi chiedo? Ne usciranno davvero bambini capaci di rispettare l'altro o sarà soltanto l'ennesima spolverata di politically correct su un problema ben più allarmante? E se fosse giunto il momento di lasciar perdere le forzature ideologiche da una parte e dall'altra e di cominciare a parlare seriamente tra di noi e ai nostri figli di tutto ciò che sesso non è? Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Susanna Tamaro Spiegare i bambini ciò che sesso non è, dal Corriere della Sera del 12 marzo. Una delle aspirazioni fondamentali dell'uomo è la libertà. Eppure non c'è dramma più grande del fraintendimento del senso e dell'uso della libertà, scrive Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze, nell'editoriale che apre l'ultimo numero dedicato alle dipendenze. Dipendenze che, secondo Saccardi, sono i sintomi del disagio e dello sperdimento che connotano il tempo presente, un tempo in cui ci si sente liberi e contemporaneamente è diffuso il rischio di cadere nell'assoggettamento a vecchie e nuove forme di schiavitù. Viviamo in un periodo caratterizzato da paradossi enormi, prosegue Saccardi. Contro il gioco d'azzardo e la ludopatia si spendono fiumi di parole. Eppure le case e le sale da gioco si moltiplicano e le finanze pubbliche sui loro proventi continuano a lucrare. E le bevande alcoliche vengono vendute a fiumi. spesso senza adeguati controlli, e all'insegna di luoghi comuni che ne sottovalutano la pericolosità sociale. Sono problemi, però, di cui viene sottovalutata la portata, anche perché qualcosa di profondo è stato scardinato nelle relazioni sociali e nei rapporti intergenerazionali. C'è certamente qualcosa che non funziona in una società in cui non solo è archiviata da decenni la tradizionale figura del padre, ma in cui non sembra esistere, in famiglia e non solo, una produttiva verticalità dei rapporti, fondata sulla distinzione e sul riconoscimento del valore e della diversità dei ruoli, delle competenze e delle esperienze. Sono d'obbligo a questo punto due precisazioni. La prima relativa al fatto che il disagio che sta alla base della gran parte delle forme di dipendenza ha radici non solo nella crisi delle relazioni umane, della famiglia, delle identità personali e collettive e delle istituzioni, ma è evidentemente causato anche da robuste ragioni strutturali a livello delle condizioni e delle relazioni socio-economiche. La seconda considerazione è che a soggiacere alle dipendenze non sono solo giovani e giovanissimi, sono persone di ogni età e di ogni condizione sociale. Si tratta di problemi presenti, in qualche misura, in ogni ambito della società. Si ha come l'immagine di una sorta di vasto buco nero che si è insediato e si allarga nel cuore e nelle viscere della nostra società. Il problema non è allora forse, o non è solo, quello di elaborare una strategia per combattere la singola forma di dipendenza. Perché anche le strategie mirate abbiano successo ed efficacia, bisogna puntare al centro del problema. Che cosa cerca? Che cosa vuole? Cosa reclama? Chi si droga? Chi beve? Chi gioca? Chi passa le ore incollato alle immagini luccicanti del computer o del videogame, usando in maniera distorta e fraintendendo il valore di fondo della propria libertà, chi è all'interno di un meccanismo di dipendenza esprime talora, in maniera distorta e autodistruttiva, una propria paradossale domanda di autenticità. È proprio la mancanza di autenticità del mondo in cui viviamo, unitamente a un fraintendimento colossale del senso della libertà, a generare l'infelicità, il disorientamento, lo spegnimento delle capacità critiche e lo sbandamento che sono spesso all'origine delle vecchie e nuove forme di dipendenza e del passaggio, non di rado, da un comportamento patologico a un altro. C'è, d'altra parte, un problema di fondo. Perché i giovani, e non solo, amano il rischio, frequentano territori che mettono a repentaglio la loro stessa vita e sembrano quasi, con i loro comportamenti irresponsabili, corteggiare la morte o, comunque, il lato oscuro e in ombra della vita? La risposta starebbe nel fatto che sono proprio la rimozione delle zone d'ombra dell'esistenza e la dimenticanza del limite oscuro della condizione umana a generare il bisogno, espresso talora in forme autodistruttive, di tornare in contatto con quanto viene cancellato e considerato tabù. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Severino Saccardi, Un capitolo della lotta per la libertà, dall'ultimo numero della rivista Testimonianze. Oggi la vita media di elettrodomestici e apparecchiature tecnologiche è più breve del 50% rispetto a 15 anni fa. Le riparazioni sono sempre più costose e i tempi di attesa sempre più lunghi. Così molti utenti preferiscono sostituirli anziché farli riparare. Ma uno studio recente dimostra che oltre a un'obsolescenza materiale e tecnologica, c'è anche una vera e propria obsolescenza psicologica che spinge i consumatori a stare continuamente al passo con le mode. Una recente indagine di Altro Consumo spiega che l'età media di un telefonino e di un tablet è di 2 anni, mentre sale a 3 quella degli elettrodomestici. Oltre il 20% delle segnalazioni arrivate ad Altro Consumo parlano di tempi di attesa lunghissimi, da 2 a 6 mesi, per la riparazione. Negli ultimi 30 anni, commenta Lorenzo Bellachioma, vicepresidente nazionale CNA Installazioni Impianti, il costo dell'elettrodomestico finito è diminuito, mentre quello delle riparazioni è aumentato di ben 30 volte. C'è più convenienza a sostituirlo piuttosto che aggiustarlo. Un esempio? Per la rottura della scheda comandi di una lavatrice si spendono intorno ai 300 euro. E allora molti colgono l'occasione per comprarne una nuova allo stesso prezzo. La vita media di un elettrodomestico si accorcia anche del 50%. I materiali sono ridotti al minimo. Il motore di una lavatrice prima pesava 15 kg, oggi tra i 2 e i 3. La ragione della durata dimezzata viene spiegata in uno studio commissionato a un esperto, Stefan Schridde, e a un professore della Facoltà di Economia di Halen, Christian Kleiss. Gli spazzolini elettrici hanno la pila sigillata all'interno. La vasca in cui è immerso il tamburo della lavatrice è in plastica, anziché in acciaio inox, così le staffe con cui è fissata al telaio si danneggiano facilmente. Alcune cartucce per stampanti hanno un microchip che segnala la fine dell'inchiostro molto prima del necessario. Il frullatore a immersione potrebbe durare a lungo se non avesse gli ingranaggi in plastica che subiscono un veloce deterioramento. Ma un ruolo fondamentale lo svolgerebbe anche l'obsolescenza psicologica, condotta attraverso le campagne di marketing. A sostenere questa tesi è l'ultimo rapporto commissionato dall'Agenzia tedesca per l'ambiente ai ricercatori di Öko-Institut. Gli studiosi hanno osservato che la percentuale delle unità vendute per cambiare un apparecchio difettoso è cresciuta dal 3,5% del 2004 all'8,5% del 2012. Entro i primi 5 anni di utilizzo, la quota di elettrodomestici di grandi dimensioni sostituita è aumentata dal 7 al 13% del 2012. Dall'analisi emerge un altro elemento. Un ruolo importante svolto dal desiderio dei consumatori di stare al passo con le mode. Così il business marcia, a scapito delle tasche e dell'ambiente, tanto che l'Unione Europea sta pensando a una tutela supplementare per le garanzie dei prodotti. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Laura Serloni, La vita breve dei gioielli high-tech. Ecco perché oggi durano la metà. Dalla Repubblica del 10 marzo.